Siamo in collegamento con Lele, uno dei condannati per le mani rosse. Ciao Lele, ci senti? Perfetto. Ciao a tutti. Dunque, la prima domanda che volevo porti e insomma darti la possibilità di spiegare è che cos'è mani rosse? Sì, allora, spiego un po' la vicenda che ci ha riguardato per chi non la conoscesse. Nel giugno del 2006, nella città di Bergamo si diffondevano queste mani rosse disegnate tramite uno stencil, una mascherina comunemente. A centinaia si diffondevano queste manine per la città di Bergamo. Subito ne nasceva un mistero, il mistero di queste mani rosse disegnate nei quartieri della città, un mistero seguito con attenzione dai media locali e con una certa curiosità dalla popolazione. Dopodiché emergeva il significato di queste mani rosse. Il significato è spiegato da una frase, che è un po' uno slogan classico, che è Tana libera tutti o Tana libera tutte, a seconda, e che fa riferimento abbastanza esplicitamente al gioco del nascondino, no? Il gioco guardia e ladri, che è un gioco universale e a tutti noto, perché chi non ha giocato a questo gioco da bambino o da bambina? Tana libera tutti, quindi le manine in realtà erano la cosiddetta tana o la toppa, a seconda del quartiere o della città in cui da bambini si è cresciuti, e appoggiando la mano e dicendo per tutti, o per l'appunto tana libera tutti, si liberano tutti, no? Quindi ecco Certo. questo generico richiamo alla libertà, o questa richiesta, diciamo, in qualche modo infantile di libertà. Questo era il significato di quelle mani rosse. Ecco, e da dove nasce l'idea, che è un'idea creativa, anche in qualche modo di comunicazione forte, ma anche creativa? Dunque, vabbè, queste mani rosse, diciamo, questo tipo di campagna di comunicazione guerriglia può essere inserita, diciamo, secondo me anche in un filone proprio artistico barra comunicativo. Bergamo ha i suoi esempi nel passato, analoga campagna si era diffusa con una R cerchiata, il cui significato misterioso poi noi tutti abbiamo appreso sui giornali era una triplice R, reclama, resisti e ribellati, e che faceva riferimento a una campagna di solidarietà dopo l'incendio al centro sociale Pacifaciana ad opera di gruppi di neofascisti. Oppure lo 052, altra campagna del 2001, molto più popolare in questo caso, un numero misterioso diffuso in città che si richiamava in realtà poi al numero di telecamere che il comune intendeva installare in città. Questo filone ha poi naturalmente dei richiami anche più seri da un punto di vista teorico, più corposi, cioè diciamo che esplicitamente Luther Blissett. Se Luther Blissett era un nome collettivo, in qualche modo le mani rosse o lo 052 possono essere considerati dei brand collettivi. Certo, quindi c'è dietro anche il ragionamento di utilizzare un segno riconoscibile e diffonderlo per la città, giusto? Era questo il L'uso primo obiettivo. nel nostro caso bergamasco, intendo dire, cioè per esempio dello 052, ma anche delle mani rosse, è quello di mutuare il marketing commerciale ed applicarlo alla politica, no? Cioè una suggestione della società dello spettacolo, della società dei media. Diciamo che lo inserirei in un filone che forse potremmo definire post-situazionismo, non lo so se è appropriato, poi non amo le definizioni, ecco. Certo, ecco, questo per quanto riguarda appunto il contenuto comunicativo di questo segno. La vicenda però non si ferma qui, nel senso che appunto come si legge sul vostro blog, che è manirosse.noblogs.org, a un certo punto ci sono degli eventi che hanno portato a degli sviluppi tra l'altro anche recenti, giusto? Sì, esattamente, nel senso che intorno alla fine di giugno veniamo fermati in tre persone e accusati di essere i fantomatici autori di queste mani rosse. Perché questa situazione appare quantomeno anomala, è abbastanza grave, a nostro avviso è una campagna repressiva che ha pochi precedenti, almeno in città. perché in realtà viene sollevato quello che ne abbiamo già parlato in occasione dell'11 marzo, viene agitato quello che è il concorso morale, qualcosa di assolutamente stravagante da un punto di vista giuridico, in qualche modo una persistenza o un regalo del fascismo, no? Dell'epoca fascista che è rimasto e che non richiede necessariamente quello che è il presupposto, il principio fondante dello Stato di diritto nei paesi occidentali, cioè la responsabilità materiale individuale, ma semplicemente quanto più generico concorso morale o compartecipazione psichica nei fatti. Quindi che cosa si intende dire? Si intende dire che non importa se noi non siamo i materiali esecutori di tutte le mani comparse in città, cosa che peraltro è particolarmente stravagante, perché in 3 persone di certo non sarebbe stato possibile fare una cosa del genere, mi pare scontato dirlo. Certo. Sostanzialmente si dice che non è importante nemmeno che conosciamo le persone che l'hanno fatto, tutto sommato, perché noi in realtà abbiamo concorso moralmente, cioè la nostra condotta moralmente avvallava quella di ignoti che hanno compiuto questa campagna, ecco, insomma. E come si diceva per i fatti dell'11 marzo, che era gravissimo questo utilizzo di concorso morale, di colpa, poteva creare un precedente, in qualche modo l'ha fatto. Beh, assolutamente. Io poi vorrei aggiungere anche una cosa, perché secondo me è particolarmente interessante, cioè non solo la polizia di fatto ricorre a questa stravaganza giuridica, io la chiamo in questo modo perché non c'è altro modo di definirla, si muove, opera in una maniera assolutamente anomala, cioè procedono le forze dell'ordine prima ad una mappatura completa cittadina delle Mani Rosse e poi si recano porta a porta con delle querele precompilate che vengono fatte firmare a quante più persone possibile. Le forze dell'ordine ne raccolgono ben 59 di querele, in modo tale che riescono a trasformare quella che era una performance in qualche modo creativa di street art in una cosa assolutamente spropositata, cioè tramutata in una punizione assolutamente spropositata. Addirittura noi avremmo rischiato di pagare una cifra superiore ai 150.000 euro, cioè qualcosa di assolutamente anche irragionevole per le nostre tasche, e da qui la nostra decisione di patteggiare, poi, perché in questo modo ci siamo evitati il peggio, cioè il risarcimento dei danni in sede penale. Ora va in sede civile la cosa, ed è questa la motivazione del nostro patteggiamento, e in sede civile, come sapete, non esiste il concorso o non può essere in qualche modo sollevato, per cui se nella sfortuna ci siamo scontrati contro il concorso morale, nei fatti siamo riusciti a scansarlo. Siete riusciti a scansare appunto questa accusa, però in realtà la situazione è rimasta grave. La situazione è rimasta grave nel senso che i soldi che dobbiamo pagare sono parecchi, nel senso che i 6 mesi di reclusione che abbiamo patteggiato sono stati commutati in una sanzione amministrativa e in più ci sono il risarcimento delle spese legali del comune che si è costituito parte civile e le spese dei nostri avvocati e quant'altro, e superiamo i 25.000 euro. Noi siamo precari come tutti, la maggior parte dei nostri coetanei, e quindi per noi la cosa è più che onerosa. Inoltre, questo è abbastanza degli ultimi giorni, una nota immobiliare ci ha querelato chiedendo 5.000 euro di danni per un edificio su cui erano comparse delle Mani Rosse, e ci porterà davanti al giudice di pace per questi 5.000 euro. Però in questo caso devono dimostrare che siete stati voi o no? In questo caso dovranno dimostrare materialmente la nostra responsabilità, il che è particolarmente difficile perché, come dicevo, è impensabile che in 3 abbiamo fatto tutte queste mani, quindi per cui evidentemente se non è difficile, se non è impossibile, quantomeno molto difficile attribuirci questa responsabilità senza lo stratagemma del concorso morale, stratagemma che tra l'altro, ancora una volta, se posso permettermi, dà un po' il polso della situazione sullo stato di salute della democrazia italiana, no? Certo, ecco, tornando proprio al discorso materiale delle denunce e a quanto scrivete voi sul vostro blog, c'è anche una componente dei gesti che si fanno per strada, sui muri, che è legata al deterioramento, al fatto di lasciare un segno in un luogo che si attraversa giorno per giorno. Ecco, l'idea che qualcuno firmi una querela per una manina rossa implica anche il fatto che non accetti in nessun modo che le persone che attraversano le città possano e abbiano anche la libertà di lasciare un segno che poi, giustamente come scrivete voi, dopo poco è destinato a scomparire per cause che vanno dalle ristrutturazioni alle intemperie, insomma, non sono segni permanenti destinati a rimanere lì per sempre. Sì, no, ma questo purtroppo rientra un po' nella percezione e nella soggettività delle persone, no? Che sono soggette ai media. Ora non vorrei fare discorsi troppo generici, però me la spiego anche così, no? Cioè, nel senso, soggetti agli impulsi dei media e magari non dotati degli strumenti per reagire, no? Cioè, nel senso, io ho avuto da imputato, da condannato, ho avuto molto l'impressione, leggendo i quotidiani e vivendo in questa città, che in qualche modo, non lo so, a me veniva in mente le esecuzioni che venivano fatte, le pene di morte, no? Che venivano fatte nel Medioevo con il pubblico, no? Con la platea in tripudio, no? Ecco, Certo. quindi in qualche modo, no, la soddisfazione delle persone a dire sì, prendeteli, adesso dovete punirli come si deve. Fa niente se poi tra i querelanti spuntano, come avevo detto precedentemente, immobiliari, aziende edili, che sono poi tra i querelanti c'erano la famiglia Percassi, la famiglia Pesenti, c'erano le persone che hanno cementato letteralmente la nostra provincia, no? Per cui non dà fastidio E che che la poi sul visibilità. territorio realmente lasciano dei segni che rimangono per molto, molto tempo. Nel senso, devastano i nostri territori, no? Esatto. Cioè devastano il clima dei nostri territori, l'ambiente, la qualità dell'aria. Questa è una città di cemento ormai, che ha subito negli ultimi 15 anni delle trasformazioni veramente inquietanti. E invece diventa intollerabile la persona che magari fa una scritta, che lascia il suo segno. In questo caso, peraltro, si tratta di piccole manine, per cui un segno anche tutto sommato discreto, ma a mio avviso, e questo però è soggettività dall'altra parte, cioè anche di buon gusto in alcuni casi, cioè veramente in alcuni casi hanno secondo me anche una valenza decorativa. In ogni caso, cioè, c'è questa intolleranza, in qualche modo difficoltà ad accettare che la città venga vissuta. E a Bergamo non abbiamo avuto soltanto il caso della street art, a cui adesso stanno facendo la guerra in qualche modo, ma non solo a Bergamo, ma abbiamo avuto per esempio il caso dell'ordinanza antipercussioni, che è quanto più ridicola, per cui il divieto dopo le 22, il divieto di legge di utilizzare le percussioni in qualunque forma, che invece è stato uno strumento per poter chiudere gli unici locali che a Bergamo facevano musica dal vivo, no? Certo. Ecco, tu prima accennavi appunto nel racconto alla stampa locale. Volevo un po' chiederti come ha reagito la stampa locale, ma anche rispetto appunto alla tua esperienza personale, poi la gente più in generale, quindi quelli più vicini e quelli più lontani. No, anche se posso aggiungere, legato alla stampa locale, se, dato che a un certo punto i vostri nomi sono diventati pubblici, se vi hanno chiesto, cioè, un'intervista o se hanno voluto interagire direttamente con voi o hanno semplicemente scritto di voi. Ma io potrei rispondere, ma diciamo, intanto comincerei a fare un'osservazione che secondo me in qualche modo è un po' emblematica anche, come dicevo prima, no, della salute della democrazia italiana. Cioè, l'Eco di Bergamo, il consiglio d'amministrazione, è controllato o quantomeno ha la presenza delle famiglie prima citate, che figurano anche tra i querelanti, per cui la famiglia Pesenti, per cui la famiglia Percassi, Che per cui il coincidenza. banchiere Zanetti, per cui soprattutto la Curia di Bergamo. E negli ultimi anni l'Eco di Bergamo ha assunto anche delle posizioni che contraddicono in qualche modo il ruolo di indipendenza che politica che il quotidiano ha sempre rivendicato. Sembra che le posizioni conservatrici e a certi livelli anche reazionarie di questo quotidiano si siano in qualche modo accentuate negli ultimi anni. Quindi no, in realtà il quotidiano, cosa che fa regolarmente, ha assunto quella che era la versione della questura, o meglio la versione che la questura ha fornito perché funzionale al disegno repressivo, né più né meno senza approfondire la notizia. Questo anche perché i giornalisti, non solo in Italia, svolgono il loro lavoro ormai in un modo quantomeno poco aderente alla professione che dovrebbero svolgere, cioè tendono a non approfondire le notizie, ma chiaramente ricevere una velina dalla questura di Bergamo, che in qualche modo è considerata una fonte autorevole, è più che sufficiente tante volte, no? Per cui, cioè, mi piacerebbe capire il giornalista se è lui ad aver scritto l'articolo o se è qualche ispettore della questura che ha scritto l'articolo, perché veramente si ha quell'impressione. Assolutamente non siamo stati interpellati, nemmeno se ne avessimo fatto esplicita richiesta. In realtà poi ci sono delle controtendenze. Per esempio, una giornalista del Bergamo volle intervistare una persona di noi e qualcheduno anche del centro sociale Paci Paciana, e fece un articolo tentando di presentare anche le nostre motivazioni. Il Bergamo è un free press, però, in questo caso. Certo, sì, anche perché poi a un certo punto se si accusano dei ragazzi di aver fatto centinaia di mani rosse, che a qualcuno prima o poi si ponga la domanda del perché, sarebbe anche il caso se se ne scrive appunto diffusamente. Comunque, insomma, credo che si sia capito bene quali sono stati i contenuti e gli snodi di questa vicenda. E il motivo per cui ci stiamo sentendo è legato anche a una serata che si terrà venerdì 31 ottobre al Paci Paciana di Bergamo, che appunto a questo punto vorrei che ci presentassi e ci parlassi un po' di che cosa succederà quella sera lì. Volentieri. Ma dunque, noi proponiamo questa prima serata che vorremmo che fosse in qualche modo un modello riproducibile anche in altre città, laddove troveremo la disponibilità di altri centri sociali. È una serata in cui noi ci proponiamo innanzitutto brutalmente l'opportunità di lentamente quantomeno tentare di raccogliere almeno una parte di quei 25.000 euro che da qui a un anno siamo chiamati a risarcire. E in secondo luogo c'è l'aspetto quindi del divertimento e quindi del coinvolgimento più legato ad una dimensione sociale ed aggregativa, per cui noi proporremo una serata trash, molto genericamente, di sound system con la peggior musica degli anni 70, 80 e 90, e in qualche modo rientriamo un po' nel tema del recuperare le suggestioni della società dello spettacolo, che un po' contraddistingue anche la comunicazione guerriglia. E poi invece proporremo invece proprio un aspetto più legato al tema della street art e della comunicazione guerriglia, quindi tentando di riaprire questo tipo di dibattito e di creare una sensibilità a riguardo. Ci sarà una mostra fotografica dedicata alla comunicazione murale in città, quindi scritte, graffiti, segni murali comparsi sulla nostra città e mappati da questa mostra fotografica. Ci sarà una sala proiezioni dove proietteremo delle video fanzine di writing art, in questo caso europea, quindi con video di azioni di writing art provenienti un po' da tutta Europa, dal Mediterraneo al Nord Europa, e dopodiché ci saranno una serie di stand di approfondimento tematico, in particolare grazie alla collaborazione del Caffè Letterario, che mette a disposizione una serie di libri sul tema della street art e dell'arte in genere, diciamo. Questo un po' è il programma. Ci saranno invitati anche Mind Liberation Army, che è un progetto di street art a Bergamo, molto simpatico, e già il nome del progetto in sé un po' forse spiega anche il significato di questa campagna di street art. Ci sarà poi la presentazione di un video dedicato alla vicenda delle mani rosse. In realtà si tratta di una preview che spiega molto brevemente quella che è stata la vicenda che ci ha visto protagonisti il nostro malgrado e che in qualche modo costituisce il trailer di un documentario fiction più ampio che noi intenderemmo proporre poi in futuro. Questo all'aperitivo, quindi l'appuntamento è per l'aperitivo, per rimanere con noi c'è anche da mangiare per l'ora di cena, per tutta la serata, fin dall'aperitivo, come dicevo, e venite numerosi e numerose e vi aspettiamo. Tra l'altro anche una bella occasione per finalmente poter vedere il rinnovato Paci Paciana, dato che ha avuto una lunga vicenda di così ristrutturazione al suo interno, che a un certo punto è diventata lunga e adesso finalmente è fruibile. Tant'è che nella stessa giornata avranno inizio i lavori per ridipingere totalmente il centro sociale. Cioè, il centro sociale questa volta ha assunto questa scelta dopo la ristrutturazione, visto che i muri ormai sono tornati ad essere totalmente bianchi, quindi di promuovere un progetto organico che in qualche modo apre le porte del centro sociale alla street art cittadina, che trasformi in qualche modo, io credo nell'intenzione dell'assemblea del centro sociale, in qualche modo si proponga di diventare una sorta di museo, no? In qualche modo della street art, di raccolta della street art, dell'arte di strada in genere, del writing cittadino e provinciale, e che già di per sé è una presa di posizione sulla questione della street art e sulla libertà di comunicazione, di interazione e di vivibilità all'interno della città e della metropoli. Perfetto, Lele, adesso ti chiederei semplicemente di ridare l'appuntamento, che giorno, che ora, e appunto due cose su dov'è il Paci Paciana Bergamo, e poi se avete un contatto appunto web che è raggiungibile, una mail, eccetera. Certo, allora il centro sociale si trova in via Grumello 61C a Bergamo, è facilmente raggiungibile dall'uscita d'Almine dell'autostrada A4. Bisogna seguire per la direzione Bergamo. Quando si arriva al cartello Bergamo e quindi si entra in città, al primo semaforo che si incontra si curva a sinistra e si arriva al centro sociale. Vi aspettiamo per la serata di venerdì, che è quello che sta arrivando, venerdì 31 ottobre 2008, centro sociale Paci Paciana, la prima notte delle Mani Rosse. Vi aspettiamo già dall'aperitivo alle ore 19, come ho detto. Se volete seguire la nostra vicenda e gli aggiornamenti e quello che succede o che noi proponiamo di volta in volta, potete seguire la nostra vicenda sul blog manirosse.noblogs.org. Perfetto, ti ringrazio, sei stato gentilissimo e insomma spero davvero che vengano molte molte persone ad Halloween, dato che è una serata di festa, per cui spendetela bene. Infatti, grazie a voi. Ti ringrazio. Ci vediamo. Ciao. A presto, ciao. Ciao.